4M. Ascolta e continua. Fammi questo esercizio. Fammelo ora, per favore. Non farmelo domani. Fammi un panino. Fammelo ora, per favore. Non farmelo domani. Dimmi la verità. Dimmela ora, per favore. Non dirmela domani. Dimmi tutta la storia. Dimmela ora, per favore. Non dirmela domani. Dammi una mano. Dammela ora, per favore. Non darmela domani. Dammi una rivista da leggere. Dammela ora, per favore. Non darmela domani.